volevo dirti che sto bene, perché la vita sfugge via e non c'è tempo di parlare. Ti guardo in cielo, stella mia. Volevo dirti c'è una donna, come tu sai ci proverò, e come sempre un po' ci credo, e come sempre dirà no. Volevo dirti mi diverto, io non mi offendo ma chissà, se quando scherzo e lei sorride, forse un po' si convincerà. Volevo dirti cresco bene, amor di mamma e di papà. Se sono triste non sorrido, Francesco sai ci penserà. E quando tutti stiamo insieme, in quei momenti prego di quanti amici voglio bene, per quelli a cui ho detto addio. Volevo dirti tutto a posto, valigie piene per chissà, tanto non dormo in nessun posto e non c'è mai tranquillità. Guarda e brilli fra un milione, ragiono sempre un po' a metà, che da una parte c'è ragione, dall'altra parte musica.